mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma tua. Chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché? No, no, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Buonasera a tutti i puttanieri d'Italia e un avviso a quelli del nord-ovest milanese, Ocio, che tra Arluno e Pogliano i vigili stanno rompendo il culo ai puttanieri come voi, agli sfigati come voi che per trombare devono pagare. Branco di sfigati, si tromba gratis, non fate come Cruciani, quello c'ha i soldi, pezzenti di merda, io vi vedo qua, fate cagare, fate, le ragazze qua vi schifano, si fanno trombare perché sono alla fame, pezzi di merda, fate cagare. Sono un puttaniere e me ne vanto, e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto, te sei un pirla e te ne vanti. Saluti. Parenzo, io sono Nicola di Calimera di Calabria. Denunciami pure, grandissimo comunista di merda, che tu sei solamente una checca repressa che deve togliere il velo, tanto ormai lo sa tutta Italia che sei riccione. E comunque tutti i sir ti sento parlare di Pilu, Pilu, Pilu, ma che cazzo parli tu a fare di Pilu? Che non è cosa per te a parlare di Pilu, perché tu sei debole di schiena, riccione. Ma quanto piace alla gente, caro David, quanto piace, querelo, alla gente. Non querelo, è simpatico questo. No, ma che devi querelare? Adesso non è che devi querelare, no, sempre. Ma esatto, ho detto non querelo. Ecco, appunto, no, precisiamo. Non querela sempre. Iniziamo subito con una citazione che riguarda molto questa trasmissione. La diceva il grandissimo, poi veramente non ti interrompo più con cose culturali, cioè, diceva il grandissimo Beniamino Placido, te lo ricordi Beniamino Placido? No, certo. Bene, che non ha avuto mai il piacere purtroppo di ascoltare la zanzara perché è morto prima. Beniamino Placido diceva: la gente è depositaria del senso comune, che è cosa assai diversa dal buon senso. Ecco, questo si attanaglia perfettamente a questo porcaio che ogni sera mette in scena alzando questo sipario su questo orrido senso comune che sicuramente non è buon senso. Grazie. Questa è bella, però non è male. Grazie, potresti grazie anche andartene qui, dici, no? Sì. Cioè, vieni pagato, sì, anche solo per la citazione di Beniamino, esatto, Placido. Esatto, bravissimo. Apprezzeranno la Confindustria. Sono le 18:38. Non me ne vado solo perché fuori Roma è bloccata da questo Black Friday, che io adoro, peraltro, quando la gente spende va benissimo. Ci sono i saldi. E come però dei, è una rottura di cazzo. Però è una rottura di cazzo. Quindi mi tocca stare qui chiuso e aspettare le 9 per andarmene via, perché altrimenti c'è un traffico. Quindi preferisco stare qui oggi, pensa a te. Allora, ti stavo dicendo che la gente gode, sì, quando il conduttore viene sorpreso, insultato, sì, incastrato, sì, sì, sì, e secondo loro viene naturalmente superato in bravura, per esempio da un da uno che dei call center, uno di quelli che ti chiamano e ti rompono i coglioni. Bravissimo, la gente gode, la gente gode. Bravissimo, bravissimo, cioè, bravissimo. Ma è giusto che sia così, per carità, ma assolutamente. Poi si passa ad un ragionamento più un po' leggermente più sofisticato e si scopre che ha ragione il sottoscritto. Comunque è giusto che la gente goda per quello che è successo ieri sera. Secondo un po' di persone che mi hanno mandato i messaggi: ah, che bello, questo ti ha rotto il culo, tu lo volevi prendere in giro e quello te l'ha messo in quel posto, ti ha risposto e non hai saputo rispondere all'altezza, si è fatto una grassa risata, e tu che lo volevi prendere per il culo alla fine ha avuto ragione lui. Pronto? Pronto, signor Giuseppe? Sì, chi è? Sì, salve, sono Giovanni, chiamo dall'Italia per conto di Eni, Luce e Gas. Ne conosce la nostra azienda? Sì, conosco, mi dica. La stavo contattando perché siamo in campagna promozionale. Perché non hai pagato la bolletta. Delle tariffe molto vantaggiose. Sì, ma scusi, innovativi. Scusi, sono al cesso in questo momento, che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora, faccio una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come, non ho capito? Hai ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? Risposta del tipo del call center, magnifica. Giuseppe, sei indifendibile, mi spiace. Che ridere, Cruciani. Volevi fare il figo, volevi fare lo splendido alla radio, approfittare di questo ragazzo che ti ha messo KO, grandissimo lavoratore dell'Eni. Cruciani, pia dell'under culo. Cruciani, mitta capandata zroces e tiro scarg, lota. Amici dell'Eni, avete perso un cliente, Cruciani, ma ne avete guadagnati almeno 100.000. Grandissimo il telefonista, da mettere come direttore. Cruciani, buttati nel cesso e tira lo sciacquone. Bravi, bravi, vi siete divertiti, bravi, bravi, vi siete divertiti a mandare i messaggi contro di me. Certo, certo, certo. Io resto della mia idea. Questo imbecille, che sarà stato anche bravo, non ha quel compito lì, non fa la radio, non fa lo show. Non fa l'intrattenitore. Ma infatti l'hai offeso? Non ho offeso nessuno. Perché era chiaramente una presa in giro. No, il lavoratore, e lui deve sopportare anche una presa in giro. È un lavoratore, uno che guadagnerà 800-900 euro mi deve convincere al mese, a passare a euro al mese. Invece, ma non ha il diritto di essere trattato, cari amici dell'Eni, a pesci in faccia, fate una bella indagine, per carità, non sospendete nessuno, fate una bella indagine e fatemi capire, siccome è vero questo call center, molti mi hanno detto non è vero, è finto, cioè no, è tutto vero. E fatemi sapere, si trattano così i potenziali clienti? Sì. Si trattano così clienti, i potenziali cattivi pagatori come te? Sì, no, sicuramente. No, quello che c'è, non ho mai avuto a che fare con l'Eni. Appunto, non c'è neanche il gas, tu, l'acqua, luce, gas per risparmiare. Amici dell'Eni, azienda che fino a prova contraria fa parte anche di Confindustria. Sì, ottima azienda, allora, peraltro ben guidata. Vabbè, questo non lo so, questo lo sei tu che devi leccare il culo ai potenti. No, io non li leggo, non leggo il culo. Allora, ho intervistato i vertici apicali. Mi fate capire se è una vostra prassi chiamare, quello vabbè dipende da tutte le modalità assurde dei call center, eccetera eccetera, magari non dipende da voi. Mi fate capire se le modalità di un vostro telefonista, lo chiamo come li chiama Parenzo, quelli della Zanzara, è quella di rispondere a uno che chiaramente lo sta prendendo in giro? A un maleducato no. Si risponde con maleducazione. No, bravissimo mio, il lavoratore, non è il che va premiato per il coraggio, peraltro, perché aveva capito che tu tanto non avresti comprato Andiamo nulla. Andiamo allo sciopero di dei lavoratori dell'Amazon. Oh, sono con loro, amico dalla parte mio. Loro. Sto con i lavoratori di Amazon. Amico che giustamente mio. Stanno scioperando. Amico mio. Hanno ragione. Senti cosa dicono questi qua, ragazzi. Siamo alla follia pura. Quale pensano follia? Di essere in un lager. No, è un lavoro usurante quello. È uno sciopero. Si possono migliorare le loro ridicoli. Condizioni. Allora, c'è un tizio si che possono dice, migliorare no. le loro Mamma, condizioni. Ma che vuol dire? Quello per sempre. Un colosso che fa 98 miliardi di fatturato. Per un colosso che fa 98 miliardi di fatturato, si mettere e organizzare meglio i turni di lavoro vabbè, e le persone sì. rende il vabbè. Lavoro migliore sì, certo. che dalle caverne, diciamo, dalla caverne, raccolta dei diamanti, dalle caverne, sì, dalle caverne, dal carbone, dalle caverne. Dagli operai morti nelle ma che nelle sono miniere. Le caverne, quelle che ho detto che sono dalle miniere? Dalle miniere a oggi è migliorata la condizione allora, di lavoro. Il comizio è finito, allora, e quindi deve migliorare anche ad Amazon. Questi dicono non vogliamo essere trattati come schiavi. Vabbè, come schiavi moderni, schiavi. Schiavi moderni. Come cioè. Schiavi? Amazon come schiavi? No, fanno sono a favore 15-20 km al giorno, è un lavoro allenante. Messaggi digitali sulla pistola con tapacchi, saresti troppo in bagno, straordinari chiesti a 5 minuti dalla fine del turno. Vabbè, queste sono piccole cose, per carità. Maratone di 15-20 km in 8 ore a passo Amazon. Ragazzi, si può cambiare, no? Ma non è che state facendo il lavoro di un impiegato normale che sta seduto, dovete impacchettare, dovete mettere i tagliandi, è un lavoro allenante. Si possono migliorare le loro condizioni di lavoro, però che vuol sì, dire? Sì, ma la schiavitù non è un lavoro. lager, non si è un lager. Si possono migliorare le loro condizioni di lavoro. Un'azienda che fa 98 miliardi di fatturato, vabbè, un'evasione di 130 milioni, può migliorare le condizioni di lavoro. Sei a favore di Soros, vergognati. Ma non c'entra niente. Soros fa un altro mestiere. Fammi sentire quello là nero che stava col megafono oggi. Nero. Era nero, che poi che te devo dire? Era nero. Un lavoratore, un sindacalista. Certo. Sindacalista. E perché lo devi chiamare nero? È un nero, è nero, è bianco, è nero. E che cazzo, dai. Oh ragazzi, siamo Amazon, facciamo Amazon. Non dobbiamo avere paura di Amazon. Siamo qua per chiedere diritti. Diritti e diritti. Avete capito? Voglio sentire gli amazoniani qua. A me quando sento la parola diritti va dai matti. Vogliamo chiedere diritti. Ma non è un lager quello. Non è lo schiavismo. Ma di che parliamo? Ma si possono modificare le condizioni di lavoro di queste persone? Che anche quando vanno al bagno vengono controllate quanto tempo ci stanno? Possiamo dire che oggi hanno scioperato il 60% dei lavoratori, e tra questi solo quelli a tempo indeterminato, e nessun precario ha scioperato per paura di essere lasciato a casa? Vai col traffico, vai. Quando è che chiudete, cornuti? La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Naturalmente. Allora, sul fatto della telefonata dal call center, allora io faccio il team leader in un call center, ho lavorato anche in passato per Eni. La chiamata che ha fatto quel ragazzo, per quanto possa sembrare educato, in realtà è la negazione assoluta di quello che è, anzi è il simbolo di quello che non si deve fare. Perché se Cruciani fa lo stronzo e lo provoca, quello lì non deve rispondere. Ha ragione Cruciani quando dice: lui mi deve conquistare, mica deve battibeccare con me. Ma stiamo scherzando. Parenzio, qui dimostri ignoranza, perché non è così che funziona. Se tu chiamassi il tuo amico capo della comunicazione di Eni e gli segnali questa cosa, a quel ragazzo lo fai inculare. Lo fai inculare, perché quello lì deve essere preso e portato fuori. Avrà preso 1000 telefonate, 2000 telefonate, sì. Questo lavoro purtroppo è duro per questo, e non lo possono fare tutti proprio per questo. Perché alla 2000esima è uno, se uno fa lo stronzo, tu devi abbozzare. Ma cosa devi abbozzare? Ma tutta la vita, dai, tutta la vita. Questo è il tuo lavoro, abbozza e non rompere il cazzo. Dopo dai. L'ennesima chiamata, che uno schiavo che deve stare giù con la testa. Ma mica lo voglio condannare a morte. Giù con la testa deve stare, giù con la testa deve sentirsi gli improperi di ma un cretino. Ma che improperi? Ho detto che stavo cagando mentre mi chiamava. Un cretino che gli dice che è al bagno. Può dire: guardi, ora non posso, mi richiami dopo. Ero al bagno. Dovrebbe denunciarti. Sì, denunciarti perché gli hai fatto perdere tempo, peraltro. Per stalking. Sì. Allora, a Roma ieri sono stati circondati dei poliziotti che erano entrati in un campo Rom, e forse dovevano chiedere prima il permesso, dovevano bussare alla porta. Comunque, guarda, giustamente mi segnala l'ottimo Davide Romano, ma appena scritto un'agenzia, Davide Romano dice: è interessante vedere come il regime di Cruciani sta per crollare. Prova ne è il fatto che dopo la telefonata a Leni sono partiti gli attacchi al despota. Appena Cruciani sarà più debole, sarà spodestato. Rivoluzione! Rivoluzione! Ha scritto così. Ma che sta parlando? È impazzito. Interessante vedere come il regime di Cruciani sta per crollare. Si vede, lo vedo, lo sento dal consenso che c'è da internet. La corte può continuare ad alterare la verità, ma alla fine sarà l'8 settembre anche per voi, voi che lavorate a Milano, Poli, Longoni, Ramelli, tutti per voi, tutti voi, per Mercurio, non ho mai capito come cazzo si dice lì, la corte per voi, tra poco sarà l'8 settembre, passerete di qua, io già lo sento, lo vedo, lo palpo in internet, nella rete, lo sento. Parte tua, No, perché mandano ogni tanto questi audio contro di me, facendo questa immagine, no? Questa idea che il mondo sia contro Parenzo. No, maggioranza silenziosa, sta per vincere, il despota sta per crollare. Ripeto. Ultimi bagliori di un regime. Vedi, ultimi. Ma no, ma sono gli ultimi vagiti di un regime. È impazzito. Allora, ragazzi, alla Camping River di Roma, incredibilmente trasformato in campo rom. Due poliziotti hanno tentato di arrestare due rom ieri perché erano stati sorpresi dagli agenti mentre svuotavano un container di merce rubata. Così era una cosa normale, certo un cazzo. Ho capito, d'accordo. Cosa fanno? Rubano, lo sappiamo. Le forze rubano, dell'ordine sono state però circondate da 150 nomadi. Male. Circondate da 150. Senti le voci all'interno di questo campo che già non dovrebbe esistere. Era stato già. C'erano le promesse di smantellarlo il 1 ottobre. Ovviamente non è successo un cazzo perché hanno semplicemente staccato la corrente, sì, la luce che pagavamo noi. Noi. Ha chiesto che stiamo cercando noi una casa, ma noi non gli dà nessuno la casa. Io stavo cercando le agenzie di casse di questi immobiliari e nessuno non mi danno. Dice che siamo del campo, chi ti danno le case? Noi siamo zingari. Amico mio, scusami, però non è che le agenzie ti danno le case. No, questo non ti danno le case perché... perché evidentemente non dai garanzie, non dai delle garanzie di pagamento. Dice, che faccio una vita? Io stavo campo rom, rubavo rame. Beh, ho capito, però è difficile, uno dice, mi dai delle garanzie che... Infatti, è difficile, bisognerebbe no? trovare, i comuni dovrebbero dare delle garanzie. Sì, ci dovrebbe essere un fondo sociale. Un fondo sociale, un fondo sociale in cui lo Stato garantisce per tutti quelli che non possono. Gente che dovrebbe campare tra in maniera regolare. Ovviamente gli italiani anche che devono accedere Sentiamo a questo ancora. Credito agevolato. Vai, sì. Se c'è una soluzione, qualcosa migliore, noi usciamo, però se c'è una soluzione per rimanere per strada preferiamo stare qua, perché maggior parte il campo non è brutto, noi stiamo bene. Te credo che stai bene, paghi in cazzo, ecco, stai bene, vivi come vuoi vivere e non paghi una stramazza. Amico mio, dai. Ah, Ettore Milano, cominciamo con Ettore, vai. Pronto? Dimmi. Luciani, ciao, sono Ettore il tassista, che ti ho già chiamato un po' di volte. Dimmi Ettore, non Senti, mi ricordo. Volevo vai. Parlare con quel testa di cavolo di Parenzo. È qui molto buonasera, caldo, stasera è molto caldo. Buonasera, grazie per aver telefonato. No, premetto che io non sono di destra. No, e l'altro giorno benvenuto, c'è la sciopero dei taxi, sono andato a Predappio. Che si andava a fare a Predappio? Sì. Scusa, uno c'ha lo sciopero dei taxi? A visitare... la tomba di Mussolini, così con dei miei, d'accordo, dei con miei dei tuoi amici, così in gita scolastica, in gita, bene. Uno dice se le piace ti spiego, e ho preso una rivista di tutte le opere che ha fatto Mussolini in Italia. Una rivista, benissimo. Come dire, a geografica, direi, no, una rivista, no, non era contro non una carta geografica, no, a geografica vuol dire di, vabbè, comunque non importa Ettore, vai. Allora va bene. Allora volevo dire a Parenzo, che non capisce un cavolo, nulla, non dire un'altra parola, che si deve lavare la bocca quando parla male dei fascisti. Ma aveva un problema di carta igienica a casa sua, per quello ha comprato la rivista? Cioè ha una mancanza di carta igienica a Mamma casa? Mamma mia, come sei in forma stasera! Parenzo, non dire cazzate! No, era per capire, scusi. Aveva un problema di carta igienica a casa? Come sei no. carico? Volevo solo capire questo. No. Volevo solamente dire a Parenzo che continua a parlare male dalla destra, dei di Mussolini, ecco, allora quello che ha fatto Mussolini, i nostri politici nel giro di 50 anni se lo scordo, più che rubare non hanno fatto più che fare per cui non ho capito, Ettore. Dunque tu da questa gita mi sei diventato fascista, tu non sei di no, sono sempre dalla mia idea, è sempre indisturbato, quella di essere indisturbato, obiettivo, siccome ho visto quello che ha fatto Mussolini. Hai visto, dove l'hai visto, su questa rivista? Ha visto una tomba, ha visto semplicemente una tomba e ha visto della gente che vendeva, sono andato in un negozio che vedevano tutti i gadget. E quindi cosa ha visto delle opere di Mussolini? Ha visto una tomba, no, un giornale, che dice un giornale, sto giornale, Ettore? Che cosa raccontava questo giornale? Che diceva sto giornale? Sto giornale diceva tutte adesso se vuoi te lo leggo. Sì, ce lo aspetta, legga pure, tanto adesso aspetta, poi ti richiamiamo, No, aspetta, sai che abbiamo l'interruzione noi, lo sai Davide, no? Aspetta un attimo. Aspetta, amico mio, però ti devo richiamare, qui ci abbiamo varie interruzioni. Vada al cesso a prendere il giornale e poi ce lo legge, va bene? Mamma mia, come sei carico! Pronto, prima si parlava di Mussolini. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso. Sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì, sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo. Guarda la puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei. Guerrerami, merda, guerrerami. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Ispiro come Macron. Ispiro come Macron. Ispiro vuol dire fatto da tante cose. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fare l'800240024. Oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Allora, telefonista dell'ENI, eroe assoluto, grandissimo, sei un grandissimo. Cruciani, buttati nel cesso e tira lo sciacquone, che grande, che grande! Brutti coglioni, non sapete neanche che cazzo è una rondella. Alle mani dell'immigrato non fa un cazzo, è un pezzo di ferro a forma di moneta. Coglioni, si vede che non avete mai lavorato in vita vostra. Ragazzi, le femministe, le femministe, i gruppi organizzati del femminismo, caro Parenzo. Che hanno fatto? Mamma mia, guarda, mamma mia. Cioè, in Inghilterra, non so dove, cioè, qualcuno vuole bandire la bella addormentata. La bella addormentata, perché il principe azzurro la bacia nel sonno senza consenso. E dunque si tratta di molestia sessuale. Ma siamo pazzi, siamo. Dunque, secondo una signora, forse un gruppo di femministe, non so che cosa, il principe è un molestatore. Andate a fare in culo. Si sciolgano tutti i gruppi sui diritti delle donne. No, ma che c'entra? Non serve, non serve. A proposito di donne, però, ti voglio far ascoltare, credo dei giorni scorsi, forse ieri, eccetera, sulla questione delle molestie. Sì. La questione, la Boldrini, Grasso, che dicono che l'uomo deve chiedere scusa. L'uomo, gli uomini in generale devono chiedere scusa. Gli uomini devono chiedere scusa. Gli uomini, capito? Gli uomini in generale. Perché gli uomini in generale? Ma cosa c'entra? Astrattamente è un po' così, effettivamente. Perché gli uomini dovrebbero chiedere scusa? Perché sono quelli che nel corso della storia si sono resi protagonisti dello sfruttamento, dell'accanimento sul corpo della donna. Cioè, perché gli uomini dovrebbero chiedere scusa? Me lo spiegate perché? Io non devo chiedere scusa a nessuno. E allora perché una nome degli uomini? Il maschile è quello che più di tutti ha commesso violenza. Eravamo con Ettore, dai Ettore, dimmi Ettore, dimmi. Cruciani, senti, meno male che mi hai richiamato. Allora, io ho qua tutte le opere del Duce. Lascia le calunnie e consulta la storia. Acqua, per tutta la vita cercò acqua potabile e creò acquedotti dei più famosi pugliesi e peschiera. Agricoltura, la sua prima occupazione che continuò per tutta la vita fu l'agricoltura. Poi. Ma dove l'hai prese queste cose? Qual è sto giornale che hai preso a Predappio? Non è un giornale, sono dei fogli. Ma ho capito, ma che cazzo vuol dire? Dai, su. Come cosa? Che cazzo vuol dire? Mica un giornale, sono dei fogli di tutta la storia del Duce che ha fatto. Ma dei fogli, ho capito. Renzo definisce dei libri e lui invece cita dei fogli che gli hanno dato. È un libro. Vabbè, ti sei convinto che Mussolini è stato un grande da questi fogli? Sei convinto che Mussolini è stato un grande, che devi fare? Te lo dico perché vorrei dire a Parenzo, che continua a parlare male della destra di Mussolini, che quello che ha fatto lui qua in Italia da 50 anni a questa parte non l'ha mai fatto nessuno. Sì, non c'è dubbio. Scusami Ettore, però tu hai detto non sono di destra, non sono fascista, però mi sembra che sei un grande simpatizzante signor Mussolini. Da questi fogli hai capito che ha fatto delle grosse fogli. Grandiose di stiamo parlando di ha letto dei fogli. Vabbè, la gente non è che si informa tutta su Repubblica, sul Corriere della Sera. Basterebbe leggere qualche libro sul fascismo. fascismo. Beh sì, la userà. La carta igienica l'ha presa immagino, lui. Perché, immagino perché... che lo usi. Dopo averli letti, immagino che adesso lei li ha letti, me li mandi, io ne faccio il corretto uso, se c'è scritto questo. Ma non dire cazzate. Io ne faccio il cazzo. Corretto uso. Tra l'altro segnalo che appunto qui al Sole 24 Ore manca la carta, quindi questa come potrebbe essere utile. Come la carta igienica manca? Come manca? Ma no, nel questo. Bagno dove sono andato qui mancava. Ah, manca ma la carta igienica. Avendo già fatto tutto a casa mia. Manca la carta igienica. Che non ha cambiato, sono arrivato tardi stasera, evidentemente c'è stato alla grande uso oggi, ma se lei me lo faxa, mi faxa questi fogli, sì. io vedrà che ne farò un Gabriele ottimo da Torino uso. Vai Gabriele, dimmi. Buonasera ragazzi. Dimmi, vai, dimmi. Allora, no, io ho 19 anni e ho avuto un'educazione finora di sinistra, diciamo, però noto che in parenti ogni tanto, come da quelli che sono ricchi, che sono benestanti, che però ogni tanto si preoccupano dei problemi del mondo, della povertà, no, delle sono né ricco né benestante, vivo del mio lavoro e sono felice. Vabbè, di allora quello che vai ho. Avanti, forza. No, appunto, c'è un po' la voglia di sentirsi superiori dal punto di vista morale alla gente. No, perché in realtà morale. durante il giorno io e te, gente come io e te, pensiamo ad altro, come dice Cruciani. Ma cioè, certo ragazzi, su, ma è così, non ce ne frega un cazzo, è inutile dire, io ribadisco, ma cioè il posto che ha è la vita di un migrante in Libia, perché facciamo l'esempio l'altro giorno, nella testa di Parenzo, che nella mia nessuna, però lo dico apertamente senza essere ipocrita, nella tua testa l'occupazione quotidiana e l'occupazione della morte dei bambini nel Mediterraneo, ma due secondi, ci pensi due secondi e poi basta. Ma che vuol dire? Tanto più le cose sono vicine a noi, tanto più ci impressionano. Cioè, se avessi... Vabbè, che vuoi poi, Gabriele? Realtà, non ho capito. Gente come Cruciani ha capito che fondamentalmente l'uomo è cattivo ed egoista nei confronti dei suoi simili e quindi convive con questa consapevolezza quindi questa è una sorta di autocritica dell'ipocrisia che ogni tanto ha. Vabbè, Federico da Pescara, dai, Federico da Pescara, certo. Dimmi, Federico. Sì, salve, mi senti? Sì, dimmi, dimmi. Allora, guarda, io ascolto la Zanzara da almeno 3 anni. Allora? E dopo dopo 3 anni sì. Mi hai dato far dar ragione a Parenzo. In che senso? Per scusa, spiegami. Il discorso dei diritti dei lavoratori. Ma quale? Di che stiamo parlando? Di Amazon? Tu a... sì, sì. Amazon, bene. Cioè, beh. Allora, Amazon sarebbe un posto di schiavismo, secondo questi qua. Scusa, un posto di... Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma andate, mettetevi a casa a lavorare al computer e non rompete il cazzo, allora, dai, su. Significa? Ma è chiaro che lì si fa un lavoro alienante, è chiaro che lì si corre per impacchettare. E va bene, migliorerà, ma non rompete il cazzo, dai. Ma si fa con le lotte operaie? Dove tutti i diritti non vengono rispettati. Ma quali diritti rispettati? Ma che c'entra? La partita IVA è diverso, quello sì, quello... Un altro discorso. Come partite IVA non ne abbiamo. Io rispetto. Vabbè, i lavoratori, ma allora te l'hanno. No, devi chiedere scusa. Ma chiedere scusa a chi? Scusa. Ma a chi? A ma tutti. Di che parli? Ma di cosa a stai tutti. Parlando? A tutti chi? Perché un posto di lavoro può sempre essere migliorato. Capito? Bravo, ogni questo è il punto. Non occorre essere. Ma cosa c'entra? Ma questi dicono che sono gli schiavisti. Capito? Ma di che parli? Quindi produce ricchezza e quello che produce ricchezza deve essere trattato in una certa maniera, capito? Vabbè, Federico, ciao. Ciao. No, ti voglio far sentire quello che dice uno della Will, un tale Guerriero, che si chiama Vincenzo Guerriero, che dice: ci sono dei problemi scheletrici per i gesti ripetitivi. Beh, problemi questo. Scheletrici per gesti ripetitivi. Ma questo l'avranno detto anche dei medici, ragazzi, evidentemente. Sì, però, no? Ma è normale che se scusami, tu per 2 anni negli stai anni, a impacchettare... Alla fine dell'Ottocento la gente in fabbrica moriva, no? Per fortuna le cose sono migliorate. Se questi vogliono fino i soldi, te lo dico io, giustamente fa, vogliono i soldi, dovrebbero dire... Non esisteva dire, una cosa che dovrebbero... si chiama 626, sì, dove... cioè la legge sulla sì, sicurezza però sul posto è... di lavoro. Sì, ma non ci rompere i coglioni con le citazioni di legge. Allora niente, molto semplice, una volta quando la gente, gli operai costruivano i palazzi, non erano legati all'impalcatura, oggi per fortuna lo sono. Fammi sentire questo Guerriero. E quindi voglio dire, si evolve su il mercato del lavoro, sì, no? Certo, in meglio, spero. Certo. C'è in effetti la ripetitività dei gesti, sì, e la postura, perché no, sono lavoratori che per 8 ore al giorno assumono sempre la stessa postura. Beh, e no, ripetono all'infinito i gesti. Questo porta, secondo noi, nel tempo, sì, e infatti c'è un'alta percentuale qua dentro di lavoratori che si ammalano, sì, di infiammazioni muscoloscheletriche e problematiche varie legate ai muscoli, allo scheletro. Bravo. E quindi questo è un altro dunque degli aspetti che noi più volte abbiamo, sì, sottolineato all'azienda. Di cosa? Però loro minimizzano il problema, nel senso che loro dicono probabilmente che il problema non c'è. E cosa fate? Ho sciopero per questo? Beh, ho sciopero per i problemi scheletrici. Per la questione di salute, ragazzi, per la questione di salute, ma certo. Ma non è il lager, non è il lager. Le macchine devono aiutare l'uomo. Le macchine devono aiutare poi l'uomo, devono dice migliorare questo, la vita degli lavoratori. Ridistribuire la ricchezza, senti un po', ridistribuire. Questo anche può essere un tema importante. Sì, ridistribuiamo la ricchezza, perché per ridurre i conflitti, bene, come no? Certo, meno conflitti sociali ci sono, più la società progredisce. Questa azienda di anno in anno aumenta gli utili praticamente, è sempre a salire, questo ci fa piacere ovviamente, però noi crediamo che una piccola parte di questa ricchezza prodotta dai lavoratori venga redistribuita dai lavoratori stessi, perché non si può pensare, adesso per esempio il turno notturno è diventato quasi fisso qua dentro, no? Si lavora di notte per dare la merce, beh, è strana come cosa. Ha usato le parole di un grande imprenditore che fu... Olivetti. Allora, Olivetti, mi segnalano, non un comunista, sì, Olivetti, un grande imprenditore, che diceva esattamente questo, mi segnalano la responsabilità sociale però, ed etica dell'impresa. Allora, bene, Olivetti, allora, Olivetti, mi fai parlare? Mi fai parlare? Mi segnalano che al Tribunale Ordinario di Roma è terminata la scorta in magazzino della carta igienica per rifornire i bagni del Tribunale. Siamo in attesa di nuova assegnazione da parte della Corte d'Appello di Roma. È incredibile questa cosa qua. Il Tribunale Ordinario di Roma si comunica che è terminata la scorta in magazzino della carta igienica. Adesso i lavoratori del Tribunale di Roma dovrebbero incazzarsi, non quelli dell'Amazon che hanno i benefit, gli accordi aziendali. I benefit, quelli, i benefit quelli sono i manager. I benefit li hanno i manager. Donato, porco maiale, ti uccido io fra un paio di giorni, non fra 30 anni o fra 20 anni, te lo uccido io con le mie mani. Con le mie mani. Coglione, che sei un porco, sei un pezzo di merda! Ti uccido io, coglione, fra un paio di giorni, te lo uccido io! Te lo uccido io! Te lo giuro che ti uccido io, pezzo di merda! Donato di cazzo, figlio di puttana! Te lo uccido io con le mie mani! Pezzo di merda! Capito? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Non ti è bastato il comunismo, non hai visto quanti misfatti che ha combinato, quanta gente è morta, quante centinaia di milioni col comunismo, e ancora su Gremlis va a parlare di comunismo. Te li ricordi Gremlis? Voglio fare presente a tutti gli avvinazzati che elogiano il Duce e il fascismo che la maggior parte di loro, se il Duce fosse realmente presente e il fascismo ci fosse, sarebbero finiti in qualche campo di concentramento perché inadatti mentalmente e fisicamente. Pagliacci. Andrea Venezia, vai, ricominciamo. Andrea, vai. Sì, buonasera. Dimmi, dimmi. Prima di tutto vorrei fare un piccolo inciso in merito all'operatore del call center. Sì. Parenzo, è inutile che ti fai salire la glicemia. La risposta che ha dato sto operatore del call center è di una banalità e di una dozzinaggine impressionante. E che c'entra? Mica stiamo a discutere di quello che... In più ha anche messo giù il telefono, quindi non ha dato la possibilità a Corsani di replica. Ma di cosa questo stiamo dimostra parlando? La bassezza di questa persona qua. Ma quale bassezza? È uno che sta che lavora 8 ore al giorno, telefona a centinaia di persone e allora? Si sente il bischio di turno. Corsani è un provocatore. Se gli rispondi a tono, ma lui non sa niente. Lui, ma lui non sa chi è. Appunto, a maggior ragione. Chi, io sono uno si che è lui. È sentito preso in giro da una persona che lui ha chiamato gentilmente facendo il suo lavoro. Ma preso in giro di cosa, Parenzo? Per cosa? È come perché se gli ha detto un cagando. Commesso. Detto, è come se. Guarda, beh, certo. È come se un commesso. È come se lei guarda, andasse scusa. In un supermercato e chiedesse a un commesso del supermercato, quello le dicesse, guarda, che lì c'è uno scaffale con dei biscotti. e tu gli dicessi in modo molto maleducato: ma io me ne frega niente, voglio la carta da culo. È un esempio del cazzo. Sarebbe, lui ha chiamato è un lavoratore, va rispettato, va rispettato. E quindi, quindi è d'obbligo la maleducazione. E quindi stava è d'obbligo. Sto cagando. Mi parli adesso o mi chiami dopo? Lui è stato cortese. Mi pare una risposta molto maleducata. Ma molto che, qual è la risposta maleducata? Ma siete matti, veramente. Vabbè. Andrea, che vuoi dire oltre a questo? Oh. Volevo intervenire su Amazon, che sono passato prima davanti fatalità al centro, sì. Che erano due camionette dei carabinieri, sì. Che sinceramente io pensavo prendessero molto meno, a 1250 euro al mese. No, guarda, hanno lo stipendio più alto, naturalmente facendo le debite proporzioni, rispetto agli altri lavoratori uguali dello stesso settore, eccetera, prendono lo stipendio più alto e hanno più garanzie infatti, degli altri, hanno benefit vari. Parliamo comunque sempre di persone che stanno in piedi otto ore, che devono fare dei turni, ma certo, è così. Massacranti. Ma così è organizzato quel lavoro. Se si può migliorare, ma guarda che una volta il lavoro era organizzato diversamente dalle fabbriche. Il fordismo organizzava anche quello il lavoro, eppure dai. Sono migliorate nel corso degli anni le condizioni di vita nelle fabbriche, ma dobbiamo essere felici Veneto, di questo. Vieni in Veneto a vedere la gente che lavora 14-16 ore al giorno e quindi arrivare a fine mese, ma, sì. Ma non fanno ma cosa vuol dire questa roba? Ma non fanno volantinaggi, non fanno ma cosa volantinaggi. Vuol dire? Ma c'è gente che sta in macchina 15 ore, prendi il karma, prendi il karma che fai. Il karma, cosa me ne frega del karma? Il karma è il karma, a parte che guadagnerà di più di questi qui. Ma comunque karma fa la gente di commercio. Ma infatti deve star fermo anche lui qualche ora per riposarsi. Anche lui ha degli obblighi di legge da rispettare, dai. Perché il suo lavoro non si può addormentare. Il rischio del karma. Il karma, poveretto, fa un lavoro molto faticoso. E infatti ha dei turni, ha l'obbligo di stare fermo. Io ho paura se il karma va in macchina e guida per 24 ore di seguito. Uno, perché magari ci sono io in autostrada e mi travolge col suo cazzo di camion. Due, perché non se è non un è lucido il karma. Non lo so chi è karma. Ma se non è lucido mi spaventa il fatto che sia la guida del suo bolide, del suo tir. A prescindere, per carità, mi stai simpatico, però tutte le tue, tutti i tuoi pareri sono contrari a qualsiasi senso comune del va bene, Angelica Reggio Calabria, dai, Angelica Reggio Calabria. Angelica? Sì, pronto. Dimmi, non si sente. Matteo da Bergamo, dai, Matteo. Sì, ciao, io volevo capire un attimo Parenzo dove vuole andare a parare, perché sono discorsi a partire dal Black Friday e anche del centralista che non hanno senso. No, io sono a favore del Black Friday, sono favorevolissimo. Ma che al Black c'entra? Friday, ma cosa intendere. Vuol dire? Cioè, come si fa a essere contrari? Che vuol dire? Cioè, esatto, beh, c'è chi è contrario, io sono favorevolissimo. Vabbè, una giornata Matteo, allora... di sconti nel mondo va benissimo, incentiva non il commercio, senso, ottimo. Non ha senso che venga definita schiava della gente che lavora, fa il suo lavoro e prende anche dei bei soldi. Cioè, un infermiere che soldi da impiegato, beh, sono soldi, non degli impiegati, degli operai che prendono uno sì, stipendio che adeguato che se al vai loro ad lavoro, Amazon non devi ma che siccome lavorano comunque in condizioni di fatica e fanno un lavoro fatica, usurante, ma la fatica è un'altra, ma la fatica ma è un'altra, fatica? La fatica è la gente che spacca le pietre, è la gente che lavora nelle fabbriche, nelle fabbriche da metodi metameccanici, è un lavoro, è un lavoro da operaio usurante. Quello, beh, sì, certo, andare certo. A scaricare i pacchi da una parte certo, all'altra, per carità, dalla assolutamente. Quindi se si può migliorare le loro condizioni di lavoro, non vedo perché si debbano alzare delle barricate contro un principio sacrosanto. Ma poi tu dici che vanno migliorati perché Amazon fattura 98 miliardi. A me no, dico, di in più c'è da dire che Amazon, se migliorasse le condizioni di lavoro di queste persone in Italia, avendo 98 miliardi di fatturato, non è che gli crei un problema, non è che gli porti, fai le proprio ma proletario. Ma io sono felicissimo che il signor Jeff Bezos sia uno degli uomini più ricchi del mondo. Ma lo lasci parlare o no? C'è sto Matteo, oppure devi fare il tuo comizio a favore dei sindacalisti. Che non sono hai. Contro Bezos io, tutt'altro, mi sta molto simpatico. Matteo, ma se allora si dai. Possono migliorare le condizioni dei lavoratori, l'hai già perché detto, non Matteo, vai, dimmi. No, poi volevo capire anche il discorso del centralista. Il centralista non è uno schiavo, è pagato per fare quello. Sì, quindi per convincermi, invece fa lo, fa lo spiritoso con me. Ma adesso vediamo. Mauro dalla provincia di Pesaro, vai. Pronto. Dimmi Mauro, dimmi. Io volevo intervenire sul tema importante della pulizia dei bagni pubblici. Io nel mio piccolo faccio qualcosa, perché quando trovo un bagno dove è passato un incivile, col getto dell'urina pulisco, se non è troppo... passato troppo tempo, pulisco e lascio il cesso pulito per qualcun altro. Ecco, solo questo. No, non ho capito, scusi, caro Mauro. Allora, tu hai una tecnica per fare cosa? Non ho capito bene. Per pulire i cessi pubblici quando sono costretto a usarli e sono... sporchi. Sì, perché abbiamo aperto nei giorni scorsi questa tematica di cosa fare in un cesso pubblico. No, assolutamente fondamentale. A tutti capita di avere bisogno e di andare in un cesso pubblico. Io quando vado cerco incredibilmente, non so perché, di pulirlo. Ho questa fissazione di non lasciarlo sporco. Vi do un consiglio. Io quando sono nelle grandi, io non vado quasi mai nei bagni pubblici, ad esempio. Quando frequento le grandi capitali europee, ho una tecnica che suggerisco a tutti voi. Entrate, specie nei paesi, in Italia funziona meno, ma a Londra, a Parigi funziona. Entrate in un grande albergo a 5 stelle, ad esempio. Nella lobby dell'albergo a 5 stelle ci sono sempre dei bagni. Fate finta di essere clienti di quell'albergo. Entrate, excuse me, bathroom? I don't remember. E ti dicono dov'è il bagno. I bagni degli alberghi a 5 stelle sono sempre pulitissimi. Non è che uno ha un bagno a 5 stelle. Usate questa mia tecnica. Un albergo a 5 stelle vicino, che vuol dire? Chiamati in un autogrill, Parenzo, dai. Ecco, no, ma raramente mi fermo, magari al massimo posso... tutti i giorni invece fare di trovare la PPI, quindi insomma, se fatela prima di partire, poi avete un problema, fatela prima di partire. Tu comunque lo pulisci col getto di urina. Esatto. E cioè, spesso riesco nell'intento. Cioè, ho capito, vabbè, ma c'è, grazie, qualche volta c'è l'incrostazione pure. Cioè, a te dà fastidio, io non ho capito una cosa, a te dà poco fastidio l'idea di andare in un bagno pubblico sporco? Ma a tutti dà fastidio. Certo, a tutti dà fastidio. Così coltivo un po' anche il senso civico. Bravo, sì, questo è giusto. Col getto di urina. Col getto di urina. Bah, ciao. La zanzara. Andiamo avanti. Due magazzinieri del centro di smistamento di Piacenza di Amazon dicono: in quel posto sopravvivi al massimo 4-5 anni. L'azienda ti spreme fino a quando le servi e poi sarai tu stesso a decidere di lasciarla. Paragonano Amazon a una specie di campo di concentramento. Chiamiamo un tizio che peraltro è un nigger, un nero, caro Prezzo. Cosa vuol dire? No, ma è divertente la cosa. Un tale che si chiama Frank Choanzi. È un sindacalista, quindi ottimo. Nigger, molto integrato. Nero, di colore, colored. Ma di cosa ti stupisci? Che è uno che sta là col megafono a fare gran casino. È un sindacalista, è un lavoratore. È anzitutto un lavoratore di quell'azienda. È divertente questa cosa, molto divertente. Chiamiamo. Pronto? Sì. Frank? Sì, sono io. Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Buonasera. Come stiamo? Bene. Sembra che stai dormendo, no, Frank? Sì, perché da stamattina appena sono entrato, no? Devo tornare anche lì alle 10, allora mi riposo un po'. Ah, ti stai riposando per un nuovo picchetto, un nuovo sciopero? Sì, perché facciamo fino a domani, perché c'era il turno di notte, no? Allora facciamo stanotte fino a domani mattina. Intanto complimenti, sono Parenzo, volevo farle i complimenti perché... Perché complimenti? State gettando una luce importante su una multinazionale che fa un sacco di fatturato e che deve rivedere gli orari di lavoro e le condizioni di lavoro. Allora, caro Frank, voglio sapere una cosa, ma secondo te, ho letto da qualche parte che hai detto che non volete essere trattati come schiavi? Sì. Cioè, è un lavoro da schiavismo quello là? Possiamo comparare a un lavoro di schiavo, perché non è che hai granché da decidere. Cioè, non ho capito, ma violano la legge? Non è che Amazon viola la legge, loro vanno fino alla... cioè proprio il limite della legge, ogni tanto svitano. Ho capito, però o violano la legge o non la violano, delle due l'una, cioè non è che uno può dire violano la legge, però no, forse vanno al limite, che significa? Spiegami. Allora, prendiamo la parola schiavo, il schiavo non è che può decidere, subisce, giusto? Beh, ho capito, amico mio, tu sei anche nero, sai che cos'è stato lo schiavismo? È una cosa un po' diversa dal fatto di essere impiegato di Amazon, essere schiavo. Non è che non sei libero. È chiaro che non puoi decidere. Decidono loro i turni, più o meno, con l'accordo con i sindacati. Decidono come devi lavorare, eccetera, eccetera, o no? Non è che decidono con noi. I turni lo fanno e noi subiamo. Non è che fanno con i sindacati. Ho capito, ma la parola schiavo, lo schiavismo, dov'è lo schiavismo? Ancora non mi hai fatto un esempio. Allora, io 8 ore, Amazon non ti fa fare 8 ore, quando ha bisogno ti fa fare 10 ore. Tu da quanto tempo è che stai in Italia? Da 5, da 10 anni che sono in Italia. Da 10 anni, di che origine sei tu? La Costa. Costa d'Avorio. Non mi pare che in Costa d'Avorio siete trattati meglio, o no? Ma che c'entra? I lavoratori in Costa d'Avorio come sono trattati? Meglio che in Italia, meglio che da Amazon? Posso dire che in Costa d'Avorio si lavora di meno, perché io prendo il caso del funzionario in Costa d'Avorio, che lavorano da lunedì a venerdì, secondo un lavoro ben definiti e ben stabiliti. Amazon niente non è stabilito. Cioè in Amazon Costa d'Avorio mi stai dicendo che gli impiegati della Costa d'Avorio hanno più diritti che da Amazon? Sì, io ti posso dire così. Amico mio, però in Costa d'Avorio stiamo parlando. Comunque vabbè, per carità, sarà come dici tu. Non è che in Costa d'Avorio si lavora 15 ore o 20 ore senza però diritti, Frank, sì, ho capito, ma non è che tu stai paragando il lavoro di Amazon a un lavoro da schiavi. Il lavoro da schiavi è un'altra roba. L'ha usata come iperbole, ovviamente. Quindi noi dovremmo apprezzarlo. È faticoso. Quando parlo di schiavitù non è moderna schiavitù, è paragonabile alla schiavitù, perché la mia decisione non conta, devo subire. Ma subire cosa? Spiegami una cosa. Devo subire tutte le decisioni di Amazon. Eh beh, certo, non è che comandi tu, non è che comandi tu in un'azienda, non è che uno può ribaltare. No, tu che fai lì ad Amazon? Io lavoro all'outbound. Che vuol dire? Significa in termini semplici l'uscita della merce. Quanta strada fai ogni giorno? Quasi 15-20 km. 15-20 km al giorno? Sì. È un lavoro usurante? Sì, sicuramente. Amico mio, però stai ad Amazon, non è che stai all'ufficio al Ministero delle Finanze su una poltrona. Mi dispiace che voi la pensate così. Amazon. No, io non la penso per nulla così, la penso come lei. Non è perché sto a lavorare a Amazon che devo fare 15-20 km. È una logistica, va bene. Camminare 15-20 km al giorno, come l'avete detto prima. Ho capito, ci sarà qualcuno che cammina 15-20 km, altri che cammineranno di devono meno. Devono organizzare meglio i turni di lavoro, ad esempio. Questo ti dice. Che problemi ti dà questa roba qua? Che problemi ti dà camminare, come dici tu, 15-20 km al giorno? Ma secondo voi qual è il problema? E che ne so, problema fisico, stai male e non riesci. Prendiamo una media di 100 persone, quasi 70-80 hanno un problema di schiena, di ginocchio, tutto quello che è superiore. Ho capito, ma ragazzi, meglio le macchine, le macchine. Ci sono già i robot, si organizzi meglio il lavoro, si renda più agevole, più confortevole il lavoro, ma non è una cosa così sbagliata. Ma secondo un'azienda che fa 98 miliardi di fatturato, siamo tutti felici per il signor Jeff Bezos, che se pagasse le tasse in Italia non sarebbe niente male, peraltro. Ti dà fastidio che Amazon non paghi le tasse in Italia? Beh, a tutti dà fastidio. No, lo sto chiedendo al signore sindacalista. Ma è l'Italia che permette che Bezos non paghi le tasse? Secondo te dovrebbe pagare le tasse in Italia? Normalmente. Cioè sì, dovrebbe pagare questo l'Italia. Questo è il minimo dovuto all'Italia. Ti diverti a lavorare o no? Ti annoi terribilmente? No, non è che mi diverto. Mi rovino. Ti rovini addirittura? Sì, ma secondo te perché Amazon incentiva l'uscita di tutti i dipendenti lavoratori? Loro ti dicono, dopo il tuo picco, dopo un anno, il picco è tra novembre, l'inizio di novembre fino a dicembre, ti dicono, noi ti diamo 1.000 euro e vattene. Secondo voi perché lo fanno? Perché loro sanno che dopo uno o due anni il rendimento che tu avevi all'inizio non lo puoi più fare. Il peak non è 15-20 km, sto parlando, non è su un terreno piano, è a scala, perché abbiamo le pit tower, c'è il primo, secondo, terzo livello, quarto livello. Allora dimmi una cosa, scusami Frank, secondo te è una specie di lager? Lager che cos'è? Spiegami bene, perché non un lager è una specie di fabbrica che produce malati, che produce gente che si ammala, quello è il lager. Sì, io posso dire così. Ah, una fabbrica che produce gente che fa male. Io posso dire amico così. Mio, ma che te devo dire? Se volete finire sulla strada senza lavoro, ma ci sarà una via di mezzo, no? Non è un caso di finire sul. Allora, quando tu vai a cercare un lavoro, il lavoro che fa, il lavoro è destinato a te e alla tua famiglia. Ma tutti i lavori sono faticosi, amico mio. Perché lo Stato parla della salute sul lavoro? Va bene, d'accordo. Ragione perfettamente. Tutti gli sforzi che facciamo. Scusa, però mi sembra di capire che loro pagano meglio rispetto ad altre aziende. Avete vari benefit. Questo è pagato bene. Che una persona fa la notte che prende 1.000 euro, che una fa la notte che prende 1.100 euro. Quando parliamo di benefit, amico mio, ma la media degli stipendi. Ascoltatemi adesso. Quando che qualcuno mi parla di benefit, qual è il benefit? Quando fanno i benefit, della piscina, chi va in piscina all'inverno, all'estate? Scusami, però, Frank, allora voglio dire una cosa. Tu stai paragonando i vertici di Amazon a degli aguzzini, cioè a dei moderni schiavisti. Gente sì, che sta... questo sì. Moderni schiavisti. Sì. Vabbè, caro Frank, buon lavoro. Ciao, ragione. Dai, in bocca al lupo. a Frank, fatte un'altra dormita. Fatte un'altra dormita. Mi pare abbia detto delle cose di, ma di assoluto detto, buon senso. Ma che ha detto? Dai, su. Che ha detto? Ma stiamo scherzando, stiamo dicendo sul serio. Dai, ho delle cose molto sensate. Faccio 15-20 km al giorno, certo, è quello il lavoro. Certo, non è un altro. Si tratta, si può salgo migliorare. Su e giù. Ma guarda che una volta, ragazzi, una volta le condizioni del lavoro. Ma io non riesco a capire perché non moderni si può, schiavisti, visto ma sono che ci sono, dai, le macchine. Vogliono si i sordi, vogliono i sordi. Va bene, anche, lo dicessero. Ma mi sembra legittimo. Lo dicessero, vogliamo quando i quattrini. Le aziende vogliamo vanno i quattrini. Bene, quando le aziende vanno bene, è giusto vabbè che le distribuiscano. Vabbè, c'è evidente il socialismo reale. Ragazzi, comunque. No, ma che socialismo reale? Mi sono rotto il cazzo pure parlate di Amazon. Sai che dopo un po' mi sono fatto due coglioni. Amazon, ma che cazzo me ne frega? Basta che mi consegnano i pacchi in tempo a me. Ho ordinato un paio mai, di cose. Ma cosa vuoi? Ordini mai che non paghi mai io niente. Ho comprato tutto le scarpe cabriolet, mia figlia. Tutto cabriolet. No, ho comprato tutto le scarpe a mia figlia, un centinaio di euro. Chissà, col Bitcoin le avevi comprate. No, okay, soldi l'ho pagato. Del Monopoli. Con quelli del Monopoli gli hai dato. Ed è venerdì. Crucia fino a notte. Non mi rompete. Sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! La Zanzara. Chi è che mi chiama? Io aspetta un attimo, aspetta, io non capisco chi è che mi chiama, aspetta. Pronto? Pronto, signor Giuseppe? Sì, chi è? Sì, salve, sono Giovanni, chiamo dall'Italia per conto di Eni, Luce e Gas. Lei conosce la nostra azienda? Sì, conosco, mi dica. La stavo contattando perché siamo in campagna promozionale. Perché non hai pagato la bolletta. Tariffe molto vantaggiose. Sì, ma scusi, innovativi. Sono al cesso in questo momento. Che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora, faccio una cosa. Si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come? Non ho capito? Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? Scusi, sono al cesso in questo momento, che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora faccia una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come? Non ho capito? Si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? Allora faccia una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Tiro lo sciacquone. Come? Non ho capito? Si mette anche lei dentro, tiro lo sciacquone. Come? Non ho capito? Ah, Cruciani, guarda pure a me, mi stanno proprio tanto, ma tanto proprio sul cazzo quando che mi fanno se telefonate. E te giuro me ne arrivano un paio al giorno. Però stavolta guarda, vattene a fanculo! Mi tocca dare ragione a quel testa di cazzo internazionale! Mi tocca dare ragione a quella testa di cazzo internazionale! Perché dai, Gesù, ha trattato male, no? Che cazzo stai a dire? Diciamo, caro Cruciani, che hai fatto un po' la cacchetta fuori dal vasetto. Ciao Cruciani, manna a fanculo da parte mia quella testa di cazzo internazionale ebrea. Ciao Cruciani. Pure chi è questo? Quirico, no? Pure Quirico contro di me. Pure Quirico per la prima volta contro di me, anzi la seconda. La cosa strana di me è che mi dà ragione e poi mi dà della cosa internazionale, cioè incredibile, è un povero schizzato. È bipolare. Intanto sulla questione del vestito, del completo di Parenzo comprato a Napoli. Ancora. Interviene il Karma Quotidiano col suo editoriale. Non è stato ancora confezionato. Vabbè, ci vorranno tre settimane. Pure, ci vorrà... pure. Beh, certo, abbiamo le scelto rifiniture, la stoffa. No, la stoffa, le rifiniture. Il colore l'hai scelto. Il colore l'hai scelto ovviamente. No, certo, c'era cos'è, un colore di... unico oppure no, hai optato per una no, per un blazer? Per lo... No, no, lo spezzato si usava una volta, una roba anche abbastanza così dozzinale. Il, quello completo blu, il blu è un blu completo, un vestito completo blu, un completo è una cosa blu. Normale, cioè, non riesco a capire. È normale per milioni di italiani. Sto aiutando l'artigianato, quello l'artigianato è vero. Guarda che c'è un sacco di grande made in, quello è vero, cioè... quello è vero. Intanto l'editoriale del Karma su questo importante momento della vita di Parenzo c'è dire la sartoria napoletana. Minchia, mi stai mangiando telefono, mi stai mangiando telefono, è meglio che metto lontano telefono. Sto cornuto di Davide si va a Napoli a farsi fare i vestita, i vestita su misura a 2-3 mila euro corpo, eh? A 2-3 mila euro corpo, e poi è dispiaciuto per i migranti che morono di fame o a tante altre cose in Libia, che non hanno da mangiare, che morono affogati di qua e di là. Brutto cornuto che non sei altro. Ah, perché non mi dici i soldi e aiuti gli amici tuoi africani o i nipoti a cattarci i felpi, vestita e scarpe, eh? Ma che minchia è? Quello che ti esce dalla bocca non ti esce dal buco del culo, sono due cose diverse, beh? Minchia, è bello parlare, aiutiamo. Tu sei come i preti, come parrina. I preti dicono di aiutare, di fare, di dire, predicano, ma poi lo sai che fanno? Si levano la tonica e se ne vanno a cercare lo sticchio nel bordelle, si levano pure un culletto e se ne vanno a ficcare nei night, hai capito o no? Tu fai la stessa cosa, da oggi in poi ti chiamo Parenzo Uparrino, Parenzo Uparrino, tu per me oggi sei Parenzo Uparrino, tra parentesi uprete. Ma vaffanculo, va! Grande editoriale del Karma! Grande editoriale del Karma come quotidiano! Questo tal Karma riesce su ogni argomento a ritornare sempre al punto, sì, vero, a lui più caro, lo su sticchio, qualunque sì, cosa. Sticchio, può sticchio. Essere il mio vestito, può essere il Black Friday, può essere qualunque cosa, però lui ha una reduzio sì. Ad. Ah, ragazzi, ha lo sticchio in testa, non c'è niente da fare. Ha lo sticchio in testa, è malato di figa. C'è poi poco il malato da fare, sono così. Io, malato. No, ma lui lo ammette, però, lo ammette, sì, infatti, in bocca ogni tanto Asmodeo. Cioè, è uno che ammette le proprie debolezze, è normale. Allora, ragazzi, a Gorizia c'è un problema di una quarantina, cinquantina di migranti che sono praticamente sotto un ponte, bivaccano sotto un tunnel, non so bene. Il Gorizia. Sindaco, sì, a Gorizia, il sindaco dice che non ci sono gli spazi, che bisogna spostarli. Sentite cosa dice invece un consigliere comunale della Lega di Gorizia, un tale che si chiama Zotti. Vai. Della Lega, hai detto. Lega, beh, ovvio, Lega. Stava a San Dir. Dopo che ascolti. Dopo che ascolti mi dai, beh, sì, non poteva essere. Non poteva essere. Comunque, non ho pregiudizi. Spero sempre che l'uomo sia intelligente. Ecco, qua comincia la zona selvaggia, diciamo, dove questi poveri ragazzi vanno a fare la cacca ai loro bisogni. Loro di sera scavalcano, vanno lì e fanno i bisogni, vedi anche la carta igienica, tutte queste bottiglie, dove ci sono le bottiglie c'è la cacca. Loro si portano la bottiglietta e si lavano il culo. Però poi l'acqua non basta per lavarsi le mani. Quindi puoi immaginarti queste mani che vengono per il momento sciacquate, poi mangiano, si toccano la bocca, ti danno la mano a te. Cioè, quindi il contagio esiste. Il contagio. Vi faccio ascoltare adesso un'altra cosa che non c'entra niente. Renzi su Berlusconi. Spero che Berlusconi possa essere candidato. Cioè, praticamente dice, spero che Berlusconi possa essere riabilitato dalla Corte di Strasburgo, e molti hanno interpretato questa cosa come un nuovo indizio della vicinanza tra questi due signori, no? Se gli italiani vorranno votare per Silvio Berlusconi, forse dimentichi di come ha lasciato il paese, noi lo rispetteremo il giudizio, non è un... Però, anzi, io spero, vivamente, faccio un appello, che Berlusconi possa essere candidato. Tu lo sai che ogni tanto... Ma mi sembrava ironico in questo caso, però. No, secondo me no. Quando risento, quando sì, poi non gliene frega niente, probabilmente non lo spera nemmeno, non lo so, comunque questo ha detto. quando io risento ogni tanto le voci, le poche voci di politica che ormai mandiamo, sento un fastidio fisico. Ma perché? Cioè, non lo so perché, proprio un fastidio perché fisico. Stai perché... contribuendo a disarticolare questo paese. No! Oltre a distruggere l'impresa, stai contribuendo a smantellare di quella democrazia che abbiamo conquistato a fatica. No, ma perché veramente penso che siano spesso, la maggior parte delle volte, delle parole inutili, delle parole prive di senso. È interessante, per carità, questo dibattito su è meglio Di Maio o è meglio Berlusconi, meglio Di Maio o Berlusconi, perché ti fa capire dove tira il vento un po' della sinistra, che adesso il vero pericolo per il PD e per Berlusconi insieme sono tutti i 5 Stelle, cioè solo i 5 Stelle. Beh, no, come sai, la questione di Scalfari, a questa fai riferimento, ha diviso in realtà moltissimo anche la sinistra. L'abbiamo già detto. Un sacco di persone che conosco io, ad esempio sul caso di Ostia, molta gente di sinistra mi ha detto di aver votato per i 5 Stelle piuttosto che quella di Fratelli d'Italia. Sgarbi, numero uno, senti. Un amico di tante imprese, soprattutto erotiche, che è il cavalier Berlusconi, che io ammiro e difendo per il suo privato. Se non hai visto nessuno indagato e condannato perché scopa donne consenzienti? Qui abbiamo uno che ha dato al mondo dell'amore tutto quello che poteva dare, condannato perché ha amato donne consenzienti, le quali hanno anche tratto qualche beneficio. E non sono prostitute, ma una categoria più alta, di cui il simbolo è sua moglie che lo ha abbandonato. Mantenute, categorie altissime, nobilissime. Chiamare un nome con la denominazione dell'albergo, 5 stelle. Ma noi le stelle le usiamo per qualificare i ristoranti, gli alberghi, e tu dai a un partito un nome che non vuol dire un cazzo. Meno che un cazzo. E una quantità di cazzoni votano quei coglioni. E perché lo fanno? Ho capito anche questo. Perché l'elettore si specchia in quello che gli assomiglia. Quindi più vede un coglione, più dice: ma come me? Lo voto anch'io. Il genio di Grillo, che non è un coglione, è aver trasformato quello che nessuno è riuscito a fare, la merda, in oro. Perché cosa faceva un dissenziente? Era irritato contro il potere, scriveva merda. Il voto era nullo. Scrivi Grillo, il voto è utile. Quindi Grillo è il volto nuovo della merda. È la merda utile. È impressionante. È un genio assoluto. Però devo dire la verità, Grillo oggi ha detto una cosa, anzi ieri nello spettacolo teatrale che fa in giro per l'Italia, anzi a Roma in questo momento. Stasera è a Roma. Ha detto che, sì, ma ha già fatto ieri, credo, che il Movimento 5 Stelle è un'arca di Noè per i disadattati. Sì, un'arca di Noè per i disadattati. Questa è una bellissima definizione e la condivido in pieno. Va bene, allora Alex, provincia di Pistoia, vai. Vai. Sì. Allora, la cosa sconcertante... Devi fermarti però, o ti fermi o devi farti sentire bene, ma sì. Ti sentiamo bene, vai Alex, va dimmi, bene, vai, vai, vai. Dicevo, la cosa sconcertante è che telefonano per dire che quello lì è stato un grande dell'ex... Vabbè, ma quello è normale. Ma vaffanculo, vai, testa di cazzo, che sei più... Ma uno chiama... Senza, mi chiamo Giovanni, può essere Maurizio. Innanzitutto te stai, sono io non so chi sei te. Innanzitutto. Sì, no, magari avevano scritto, questo? C'era scritto quello Giuseppe è il loro Cruciani. Lavoro, ma che comunque cosa è vero. Dire? È il loro ma lavoro. Ma chi me ne frega? Ma l'ha scelto lui sul lavoro, Ma certo. A me mi rompi i coglioni. Non ha scelto di essere insultato, però. Scusa, non ha scelto, è un lavoratore che non ha scelto di essere insultato. Ma non era un insulto, gli ho detto che stavo cagando. Era una presa in giro verso uno che stava lavorando. Vabbè, Alex, allora? Sì, a prescindere da quell'imbecille, tanto è un cretino, che se lo scopro lo licenziano subito. Però speriamo il signor no. Frank della Costa d'Avorio, io avrei una soluzione per lui. Qual è? Siccome le condizioni di lavoro in Amazon sono abbastanza pessime, sì. Torna a Costa d'Avorio. Ecco, lo immaginavo. No, ma non è sbagliato. Come è intelligente questo ascoltatore. Cioè, questo ascoltatore qua, anziché porsi il problema di come migliorare le condizioni di lavoro che riguardano molte persone, lui preferisce prendere il modello Costa d'Avorio. Ma lei è veramente un furbo, eh? Ma che lei cazzo è veramente intelligente, coglioni? Anziché dire, ma forse c'è un problema delle condizioni di lavoro, se miglioro delle condizioni. Ma giustamente, mi scrive uno. Ma perché lei conosce qualcuno in Italia che non è un problema, signor Parenzo? Ma tutti quelli che lavorano hanno i problemi, tutti fanno lavori usuranti. Ma allora che vuol dire? Allora quelli che lavoravano nelle miniere stanno a questo c'entra, principio. Ma chiunque... Allora, scusa, quindi, la catena di montaggio negli ultimi 30 anni è migliorata o no? Sì. E allora, grazie a che cosa? Ma cosa c'entra? Agli imprenditori e alla tecnologia. Ma cosa c'entra? E ai diritti dei lavoratori. Ma questi tre fattori. Ma questi non imprenditori, sono schiavizzati. Non sono diritti, schiavizzati. Non sono schiavizzati. Infatti ha detto neo schiavi per alcune modalità. No, ha usato un'iperbole che ti dovrebbe piacere, visto che questa trasmissione è costruita sulle iperbole. Fermo lì. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! La zanzara. Parenzo! Ci sono gli zingari a Firenze che manifestano, vogliono la casa, movimento per la casa. Che dici? Gliela diamo? Gliela diamo, li facciamo entrare e poi dopo boom! Parenzo, minchia, ho visto il servizio a Striscia la Notizia, minchia bella la tua Padova, eh? I richiedenti felicità, pieno di negri che spacciano cocaina, tirano bucce di banana, bottiglie, bello. Boldrini, guarda lo schifo che stai facendo, tutta questa merda che arriva qua, e grazie a te, grazie Boldrini, grazie. La zanzara. Comunque oggi, come oggi, se non ti molestano non conti proprio un cazzo. Cioè, io non so davvero, Parenzo, dove cazzo vive. Ma dove vivi, Parenzo? Dove cazzo vivi? Le donne non sono ossessionate dal sesso. Le donne sono peggio, ma peggio, il peggio, il peggio di noi. Cioè, noi parliamo, io quando parlo con gli amici, oh bella, guarda quella che tette, gran culo, cavolo, me la scoperei, e qui, poi finisce lì, due minuti. Le donne sono ossessionate dal cazzo, dalle misure, parlano solo di cazzo, cazzo in continuazione, cazzo, cazzo e cazzo. David, ripigliati, va. Allora, andiamo. Maurizio Ancona, vai. Maurizio D'Ancona, poi Gianni da Chieti, tanti altri. Siamo qui sul pezzo fino alle 20:50, 21. Quello che no, cazzo che è, vai. Siamo matti. Ma sì, forse facciamo uno straordinario oggi. Ma quale 21? Ma che siamo pazzi. Vai, dimmi. Pronto? Dimmi. Buonasera. Allora, volevo dire che questi di Amazon, no, non è che sono andati lì a fare chissà che cosa, certamente non sono, comunque non sono dei minatori, devono accontentarsi, hanno firmato un contratto o comunque, per carità di Dio, il lavoro potrà essere quello che dicono, ma il lavoro c'è anche da fare questo. Io... Mi sento. Ma sì, ma poi tutto si può migliorare. Vogliono i soldi come al solito. Dai, se gli danno 100 euro, se gli danno 100 euro in busta paga di aumento al mese, è tutto a posto. Se scordano i 15 km, 20 km, le vertebre, la schiena, le gambe. Intanto avere dei soldi più in busta paga, ma se sì, cosa va bene, ma ti avranno. Ma è tutto. Secondo, se si possono migliorare. Alla fine vale molto di più il buon lavoro che tante chiacchiere assolutamente inutili. Sì, ma buon lavoro non vuol dire soltanto lavoro ben pagato. Va bene, dai, pagato, Antonio da Foggia, vai Antonio. Anche in un ambiente confortevole. Dimmi. Allora, buonasera. Crucià, ascolta un po', io sono un trasportatore che carica regolarmente, frequenta regolarmente sia le piattaforme Amazon che le piattaforme DHL, per cui il lavoro non si svolge facendo chilometri a piedi. Lo dicono loro, però. Parlano dentro il magazzino, allora, per andare a recuperare i pacchi dentro i mega magazzini. Assolutamente no, non si recuperano a piedi, ma bensì con i carrelli, con i semoventi, loro in piedi sul carrello. Ma tu stai dicendo che dicono cagate? Stai dicendo che dicono cagate in pratica? Sì, loro possono dire quello. Allora io ti prometto che la prossima settimana, io martedì sono in una piattaforma di logistica. Bene. Ti faccio un filmato e te lo mando su WhatsApp. Sì, però d'accordo? Ma tu non sai quello che succede dentro i magazzini. Magari è vero che quelli fanno 15-20 km. Io lo so. Però... io perché sono io nel magazzino. Io lo so. Sì, io ma digli all'Apparenzo, va, digli qualcosa. Ma che cazzo dico a Parenzo? Con Parenzo non si può parlare, perché Parenzo non parla senza sapere effettivamente quello che succede. Nel momento in cui io quello è un trasportatore, pare, arrendi, Antonio è un trasportatore. Va bene, va bene, allora, parlato del trasportatore, ma se ha parlato del trasportatore, ragazzi, no, Parenzo, non offenda nessuno, Parenzo. No, ho detto se ha parlato il trasportatore, io mi taccio, sa tutto delle condizioni di lavoro non di Amazon, so tutto. Basta. Io sono presente allora, al lavoro e come si svolge il lavoro. Lei sarà esterno al magazzino, alla piattaforma di lavoro. Allora, quindi incontrerà la parte finale della filiera in cui arriveranno col muletto. Arriveranno col muletto a caricare i pacchi del suo camion. Nessuno si muove a piedi. All'attacco, arriva Antonio. Antonio. Nessuno si muove a piedi. Fammi sapere tutto. Per andare a prendere una pedana col carrellino piccolo per rimetterlo sul camion. Fammi sapere tutto. Antonio mio, Antonio mio. Impiegherò anche un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Ciao, Antonio. Ciao. Antonio. Abbiamo con noi, caro David, grande ritorno alla Zanzara proprio nel giorno di grande battaglia su Amazon, sulle multinazionali, il professor Fusaro. Ah, buonasera, buonasera, buonasera. Un caro saluto da Diego Fusaro a voi e a tutti gli ascoltatori. Io sono nelle Calabrie e vi saluto affettuosamente. Nelle Calabrie, nelle Calabrie. Mi manda già come espressione. I matti, il modo perché? Come la perché non si può dire. Io direi anche la Calabria Saudita, io aggiungerei, ecco. Però è un'espressione, come dire, usata per altri motivi, certamente. Che fai nelle Calabrie, professore? Cosa nelle Calabrie ho svolto alcune conferenze, ho conosciuto una popolazione meravigliosa, con grande ospitalità. Mentre i pecoroni cosmopoliti celebravano il Black Friday, ovvero il venerdì nero, festa omologante del capitalismo globalizzato, nuova religione dei popoli sradicati, a comprare le cose scontate. Mi dilettavo con le vivande calabresi, tra paesani gustosissime, con delle fighe, la filosofia delle Calabrie. Ho capito, raccontava filosofia, magnava con delle fighe, sostanzialmente, che va benissimo, ma per carità. Affatto, niente affatto, ho conosciuto degli amici splendidi, perché il valore della filia è un valore epicureo che è tutto da riscoprire. La filia, l'amicizia. L'amicizia, si scusi. Un amico è eterno, è il dono più grande che i divini possano dare. Sì, non escludo che lei stasera possa anche garbatamente come dire, no, utilizzare il suo computer, l'altro suo organo prediletto. No, il primo cervello. Mi perdonerete, la dedicherò alla lettura di Aristotele e Hegel, perché la sera è un momento ottimale per la lettura, per meglio comprendere le contraddizioni reali di questo mondo infettato dalle contraddizioni di un capitale che ormai dopo l'89 non ha cessato di celebrare marxianamente le sue orge. È una formula che usa Marx nel Capitale. Come, scusi, che cos'è che il Capitale, che cos'è che non ha smesso di fare? Scusi. Marx dice nel Capitale che il Capitale celebra le sue orge testualmente. E allora? In effetti oggi, grazie al Black Friday e a queste merci che noi con coscienza ebete acquistiamo gaudenti, non sappiamo che spesso le tracce di queste merci finiscono nel sangue dei paesi detti eufemisticamente in via di sviluppo. Cioè, scusi, permetto di sottolineare anche il fatto che spesse volte l'Occidente stesso sta diventando sempre più visibilmente una colonia del capitale fra le tante. Basti considerare le condizioni sempre più oscene del lavoro che stanno caratterizzando dunque, a colpi di Jobs Act e riforme che sono altrettanti cannoneggiamenti ai danni del lavoro il nostro paese e l'Europa tutta. Dunque il Jobs Act per lei è una cosa tremenda, terribile. Vabbè, questo non volevo affrontare questa cosa qua, perché ma io dico che male c'è a comprare scontato appunto, in un giorno, non c'è nulla di male, anzi mette in circolo un po' di denaro. Però è interessante, professore, io che ho comprato per mia figlia delle cose scontate con il Black Friday, secondo lei sono un povero ebete da quello che ho letto prima, da quello che le ho sentito? Sei un ebete, sono un ebete o no? Comunque, parola mia, Diego Fusaro, di cui mi assumo le responsabilità. Lei acquistando su queste reti digitali non compie di per sé un gesto criminale in quanto tale, però, ma è semmai diciamo così poco responsabile verso il lavoro di chi produce le merci che lei acquista. Capito, non dimentichi che le merci si pagano i salari grazie a quell'acquisto di merci. Purtroppo non è così, perché le considerazioni reali dei rapporti di forza ci mostrano che i salari vengono pagati a condizioni sempre più oscene, sì, il lavoro è sempre più super sfruttato e sottopagato. Benissimo. Sempre più prevale la figura che io, Diego Fusaro, ho chiamato e chiamo il lavorare per niente. Beh, per insomma, lo scambio totalmente mancato di equivalenza. Lei i vestiti se li comprerà, professore? Dei vestiti se li comprerà? No, aspetta, fate lo shopping anche aspetta, lei ogni professor tanto, Fusaro, professore. Io voglio capire una cosa. Dunque, lei possiamo dire, annunciare ai lavoratori di Amazon a Piacenza che lei, il professor Fusaro, è a fianco delle loro lotte, delle loro battaglie. Questo. Magari saranno anche contenti. O no? Lei certo è a fianco dei lavoratori. Assolutamente a fianco dei lavoratori, sempre e comunque, soprattutto in questa fase di solitudine Bene. Completa dei lavoratori, nella misura in cui essi sono totalmente Dunque, non più sì, rappresentati. Ma lui, dalle sinistre passate dalla lotta contro il capitale alla lotta per ma il capitale. Ma la differenza è che Fusaro vuole chiudere Amazon, io non voglio chiudere Amazon e neanche i lavoratori Vabbè, vogliono chiudere Amazon, ma vogliono solo migliorare le condizioni di lavoro. Parenzo, lei sta caro attribuendo professore. A Diego Fusaro parole no, che Diego che non Fusaro ha detto. Non ha mai Lei considera pronunciato. Dei criminali io queste multinazionali. No, questo senta, sì. Senta, una cosa, professor Fusaro. Tutt'altro. No, ma assolutamente, adesso non ci mettiamo. Che è criminale il trattamento del lavoro che viene Beh, oggi. Insomma. Presentato come se fosse Senta, la quinta meraviglia. Senta, professor Fusaro, ma secondo lei, passando ad altro, naturalmente, lei penso che giudichi il lavoro di queste persone dentro Amazon qualcosa di criminale, il fatto che debbano fare 15-20 chilometri, come dicono loro, i dolori fisici che provano, dicono sempre loro, penso che considera tutto questo come criminale, o sbaglio, come una cosa tremenda, criminale, o no? Lo reputo come analogo al lavoro svolto da coloro i quali trascinavano i blocchi delle piramidi, quindi insomma, lascio a lei il giudizio di questo lavoro. Francamente, ha mangiato troppa anduia, professore. Era riconosciuta apertamente come schiavitù, e quella odierna invece viene presentata, già Marco diceva, come libera contrattazione, libero salario, in realtà è una finzione giuridica il salario all'interno del capitale. Ma quelli sono soldi, sono 1200 euro al mese, la gente ci campa. Secondo, le pongo solo una domanda. Secondo lei un lavoratore di questi super sfruttati, se realmente potesse scegliere, accetterebbe davvero di lavorare in un call center ma no, a quelle condizioni? Ho capito, ma non è che si può fare allora sempre il cazzo che vuole, non è che uno può fare il filosofo. Data voi no, ho capito. Allora, fermi tutti perché torniamo con un paio di minuti col professore perché affrontiamo cose fondamentali. Ma dov'è in Calabria esattamente lei? Perché non ho capito un cazzo, se la vede in Calabria. Ora sono nell'aeroporto, mentre invece ero fino a oggi pomeriggio nella Locride, in un paese splendido che si chiama Bianco. Beh sì, insomma, poi l'Andrangheta comunque. Dove va adesso, no, sono paesi splendidi con l'aereo, dove vola? Scoprire, rivolerò verso Bergamo, quindi che cazzo fa a Bergamo stasera? Ma saranno cazzi suoi un attimo, no? Un attimo, fermi tutti, fermi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Cruciani, ieri ho mangiato due piatti di scalogne e ti giuro stamattina faccio delle puzze e me le annuso tutte e penso a Parenzo. Parenzo, ciao. Suddetta pratica è una forma di autarchia egoistica, tuttavia, dove manca il rapporto con l'altro, perché suddetta pratica che voi avete menzionato finisce di fatto per ricondurre l'individuo a una sorta di isolamento programmatico che lo rende simile più a un atomo che non a un membro della razza umana o uno zoon politikon, come lo chiamava Aristotele, cioè un animale comunitario. Allora, sempre con noi il professor Diego Fusaro. Eccoci qui. Un caro saluto sempre. Sempre un caro sempre, saluto. Sempre. Allora, io concluderei come al solito con due piccole digressioni di stampo sessuale, come facciamo di solito. Ecco, vorrei capire da lei, teorico del marxismo contemporaneo, se la castità è un valore oppure no. Ecco, questo è importante sapere da lei. Cioè, se nella società di oggi, che lei, come dire, no, descrive così disarticolata, così ormai a brandelli, atomizzata la in un modo castità, la castità potrebbe avere un suo valore, cioè lei potrebbe fare l'elogio della castità. Dunque, io come Diego Fusaro, più che della castità, che è un concetto eminentemente cristiano, tenderei a fare l'elogio del metron, cioè della giusta misura, che invece è un valore sacro per il mondo greco di Aristotele e Platone. Nel sesso come si può applicare? Greci, per i greci la giusta misura, non dimentichiamo che sul tempio delfico stava scritto meden agan, nulla di troppo, implicava non certo l'astenersi dai piaceri della carne, quanto? Bensì l'impiegarli in forme misurate, dunque a giusta distanza dagli eccessi, rispetto ai quali la stessa castità diventa un eccesso in negativo, ecco, ma per esempio, di cui invece il godimento illimitato acefalo degli atomi sradicati di cui dicevate poc'anzi è invece l'eccesso in positivo, potremmo dire, ecco, dunque, la che ne so, giusta misura significa tenersi a debita distanza da questi opposti perniciosissimi che caratterizzano gli eccessi, esattamente. Per cui, quante volte a settimana si può fare sesso, secondo lei? Una, due volte a settimana? Non vi è un numero preciso, decretare. Sicuramente occorre evitare di prestar fede, ad esempio, alla Bibbia dello sradicamento contemporaneo, cioè? Che predica le forme che il sociologo Bauman chiamava dell'amore liquido, cioè? Dell'amore, diciamo così, privato di ogni giusta misura, è tale da determinarsi nelle forme quello più che misurate, fa Crociani, sostanzialmente. Cioè, le orge sono vietate, pratiche autistiche del godimento sono sicuramente l'emblema della società atomizzata del capitale, la masturbazione, certo. Ecco, no. I vibratori, l'utilizzo dei sex toys, come si inseriscono in questa, nella sua pantheon? Cioè, sono anche loro un prodotto della società capitalistica, i sex toys, i vibratori, questi giochetti, cioè rovinano il, come dire, no, la sessualità? No, ma in questo caso, più che alle categorie di Carlo Marx, farei più secondamente riferimento alle categorie di Martino Heidegger, cioè? Il critico spietato e feroce della tecnica. Ah, ecco, la società odierna è una società in cui la metafisica occidentale giunge al suo compimento nel nichilismo della tecnica scatenata e scatenantesi, che si determina anche in suddetti apparati tecnici a cui voi facevate disinvoltamente riferimento, normali. Per me non sono affatto normali. Ah, una società normali. Che si abbandona a queste forme autistiche di tecnica scatenata e heideggerianamente producente l'inautenticità planetaria, sono forme rispetto alle quali la filosofia può metterci in guardia, ponendoci di fronte al buio, la notte del mondo, come la chiamava il poeta, nella quale siamo precipitati. E il vero buio, lasciatemi dire, è quello in cui nemmeno si ha più contezza del buio in cui si è sprofondati. Ed è la situazione odierna. Benissimo, ma non lo so, sono quelli sofluorescenti che fanno anche esatto, luce, cioè non c'è nessun buio, ci sono i vibratori che fanno luminosi, aiutano anche a comunque io posso anche condividere, aiutano i rapporti sessuali. Comunque, professor Fusaro, grazie, arrivederci. Saluto a voi da Diego Fusaro. Non ci mancheremo. E intanto torna in campo anche il professor Tremonti, Parenzo. Professor Tremonti torna in campo e fa un giro di perlustrazione in Italia. Ottimo, Tremonti. Per vedere cosa pensano gli italiani su di lui. Tremonti chiama in Sardegna, vediamo che succede. Pronto, sono Giulio Tremonti e sono ritornato. Si ricorda di me? No. Sono stato per 4 volte ministro dell'economia e delle finanze dei governi Berlusconi. Può verificare in Wikipedia. Ma che sto cercando? Sto cercando i cittadini sardi perché ho fondato insieme al professor Sgarbi un nuovo soggetto politico. Sì, ho sentito parlare in televisione. Rinascimento. Non vi conosco proprio, né a lei né a Garbi, non vi conosco. Comunque, sono Giulio Tremonti e sono tornato. Siamo purtroppo alla vigilia di un'altra grandissima crisi, rischiamo un'altra bolla speculativa. No, veramente siamo sempre stati in crisi, voi non siete in crisi, ma gli altri sono in crisi. Questo è un tipico atteggiamento della sinistra radicale globalizzante che ha portato... Sì, ma siete tutti uguali, destra e sinistra, andate a casa, fate qualcosa di anche di altro, perché di quello vi interessate. Ho una soluzione per risolvere... come tutti gli altri. No, guardi, sono bravi tutti gli altri. C'è un sacrificio da fare. Vedendovi in televisione siete uno più intelligente dell'altro. Guardi, signor. Guardi. Pronto. Buonasera, signora. Sono Giulio Tremonti e sono ritornato. Si ricorda di me, signora? No, non mi ricordo. L'Italia va rifondata. Sì. E quindi bisogna azzerare lo spread. Sì, sarà giusto. Ecco, e per azzerare lo spread l'Italia ha solo una via: vendere la Sardegna. Come sarebbe? In questo momento abbiamo delle offerte concrete che arrivano dalla Francia, da Tobago, dagli Emirati Arabi, dalle isole Faroe, Azerbaijan, Turkmenistan, Corea del Nord e Kuwait. Comunque guardi, sono Giulio Tremonti e sono tornato. Sì. E l'unico modo per uscire dalla crisi è vendere la Sardegna. Ma la Sardegna non si vende. Hanno i soldi nella Sardegna, non si vende perché è nostra. Guardi, ricaveremo sicuramente più soldi rispetto alla privatizzazione del Vaticano oppure all'annessione del Trentino Alto Adige all'Austria. I soldi a noi, noi rimaniamo dove siamo nati. Signor Tremonti, Tremonti. Sì. Giorgio da Lucca, vai Giorgio, dimmi. Buonasera Giorgio, Giuseppe, vai. Io lo so perché tu vuoi parlare con me. Perché? Non lo so perché. Io invece voglio parlare con te perché finalmente voi portate all'attenzione della gente questi temi di cui non si parla mai e Parenzo non ne vuol parlare. Quali temi? Se la gente scopasse un po' di più avrebbe meno vizi e farebbe meno danni. Ma non lo so, adesso questo è una vecchia teoria, insomma, che il sesso porta felicità e dunque se la gente scopasse di più ci sarebbero meno problemi. Insomma, si può discutere fino all'infinito di questa cosa qua. Però, insomma, Giorgio, che volevi dire a parte queste teorie? Volevo dirti che l'altra sera ho telefonato, te l'avevo detto che c'ho la moglie multiorgasmica. Ah, tu ci hai chiamato, è vero, per dirci che tua moglie è multiorgasmica. Sì, bravo. È vicino a te tua moglie? No, non c'è. E allora? Io ti chiamo la sera quando torno dal lavoro, però l'esperienza che io ho avuto con le donne è che potenzialmente ogni donna può fare questo. Cosa? Il essere multiorgasmica? Esattamente, sì, questa cosa qui è più nella testa che nella figa. Sì, però amico mio, adesso va bene tutto, però perché ci vuoi dire che tua moglie è multiorgasmica? Cioè, quali vantaggi dà innanzitutto? Quali vantaggi personali hai da questa caratteristica di tua moglie? Cioè, non devi sforzarti tanto per farla godere? I vantaggi principalmente ce li ha lei. Però fa piacere anche a te, perché poi quando sei con una persona e riesci a darle queste multiple soddisfazioni ti senti bene anche tu alla però fine è anche vero Giorgio che essendo multiorgasmica evidentemente può godere potenzialmente con tutti, dunque anche con altre persone può godere allo stesso modo, no? Cioè non è un vantaggio questo qua, potrebbe godere anche con altri uomini. Multiorgasmica vuol dire che quando lei sta con un uomo gode più volte, appunto, l'importante è che tu abbia motivi per farla stare sempre con te. Ho capito, però la cosa è, cioè non sei tu abile a farla godere, il punto è questo, è lei che è multiorgasmica, cioè è lei che gode in ogni caso, cioè questo è il punto. A me piace pensare che l'ho aiutata io a diventare così, perché in effetti non è sempre stato Adesso scusi se intervengo, provo a cambiare, come dire, prospettiva. Perché ha telefonato lei? No, io non voglio entrare nel merito. Cioè, perché ha chiamato signora? Dicendoci che sua moglie è multiorgasmica? Ecco, per quale motivo? Cos'è che l'ha spinta a telefonare? Di solito io chiamo per proporvi argomenti più seri, però vedo che questi tirano di più e allora stasera ho chiamato. Ah, per quindi una scelta di cosa. Mercato la sua, d'accordo. Sarà felice sua moglie. Tua moglie, scusami Giorgio, quando viene rischia quasi di svenire oppure no? No, direi di no, decisamente. E quanti orgasmi riesce a raggiungere in un rapporto? Chi se ne frega? Ma qualche volta 7-8, siamo arrivati a 10 una volta. Vabbè, cosa 10? Devo fare in quanti io? Minuti? Cosa mi interessa? In quanti minuti? Di solito non è che duri più di 30-40 minuti. Ecco, però questo è interessante, Parenzo. C'è una donna che riesce a venire, come ha detto sarà un fatto suo, privato, che ora ha reso pubblico, non si capisce perché. È interessante il fatto che è preferibile o no, questa è una domanda che si può porre, una donna che uno deve fare una fatica terribile per far godere oppure una che viene 10 volte. È molto interessante questa cosa qua ed è una cosa che potremmo sottoporre in una delle prossime puntate al professor Fusaro, per esempio. Cioè, la donna multiorgasmica. È una caratteristica, cosa c'entra? Sì, ho capito, ma come si inserisce nel suo pensiero? Giorgio, tu la preferisci così oppure che magari viene una sola volta e devi fare una fatica terribile? decisamente la preferisco così, eh? E che poi mi proponga anche delle variazioni, qualche cosa si può giocare. Beh, abbiamo detto tutto sulla vostra famiglia, mi sembra interessante. La prossima volta chiamo con tua moglie accanto, però, ok? Ok, d'accordo. Ciao, però, buona serata, Giuseppe. Ciao, amico mio, ciao. Marco, sempre provincia di Lucca, vai, forza. Marco. Pronto, ciao, Cruciani. Non si sente una mazza. Cristian da Roma, vai, Cristian. Ciao, Cruciani, buonasera, Lorenzo. Dimmi, dimmi. Sogno, sono contento di parlare con... Vabbè, ma quello là c'era un pupazzo di gomma, una bambola del sexy shop, dai. O moglie, la moglie è ninfomane, perché non si capisce. Perché? Scusa, Lorenzo. Sì. O è ninfomane, ah, sì, un po' di dubbi ci sono, hai ragione. Superman, che ne so, buh. Ma perché ci sono delle donne che riescono a venire a ripetizione. Sì, ma per carità, mi è capitato pure a me, ma 10 volte di fila in 40 minuti, ma chi sei? Ma chi è tua moglie? Cioè, ma è davvero... mi sembra strano, a me non è mai successa una cosa del genere. Dico, subito la discussione ha preso una piega diversa, no? Vedi come basta, no? Sì, alle volte... no, vabbè, no, ecco. Per carità, no, Lorenzo, io non voglio... A me sono simpatici tutti e due, con i pro e i contro. Io una cosa, Cruciani, volevo dire, sull'argomento magari c'entra niente, però ce l'ho qua. Dimmi. E pare che ci sto provando a chiamarvi. Vado di fretta perché così posso parlare più dimmi, veloce. Dimmi, vai. E praticamente, cioè, io a me è donato da Varese, ragazzi, dovete fare una scultura, qualcosa, non lo so. Perché? È un taglio, a me mi fa... Perché mi fa ridere, mi fa ammazzare. Vabbè, allora? Però il modo magari, cioè, c'ha dei pensieri che io la vedo alla hitleriana proprio. Cioè, quando quel signore ha detto davvero il mondo è spaccato in due, comunisti, fascisti, ma regà, cioè, stiamo a parlare sempre della stessa pasta. Io non sono andato mai a votare perché non credo nel voto. E allora? Credo che nei partiti, c'è sta la gente che magari vorrebbe fare qualcosa per noi, ma c'è le mani legate. Io non penso che tutti quanti siano fanfaroni, no, Berlusconi, basta. C'hai 182 anni, ti sei tirata la faccia, basta. Il tempo tuo l'ha fatta, la guerra tua l'hai fatta. L'analisi politica, gente fresca, gente, cioè, purtroppo sai che c'è, però c'è un cazzo da fame, mi dispiace dirlo. Ormai c'è più cazzo da fare, c'hai 182 anni e devi rompere le palle perché tu devi comandare. Sei comandato, basta. Ti hanno fatti i processi, viva Piero Ricca che dice cose come stanno in faccia. Io non so uno che si intende tanto di politica, però a me quell'uomo mi piace perché chiappa la gente che deve chiappare, capito? Ciao. Io l'altro giorno ho visto il funerale di Totorrina. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.